Sono le 13. GR24, il sole 24 ore, edizione extra large. Luana Englaro è già nella clinica di Udine dove le verrà tolta l'alimentazione. Il ministro Sacconi dice: stiamo valutando la situazione da un punto di vista formale. Dove sono i ragazzi di Locri? Non c'erano ieri in aula alla sentenza per l'omicidio Fortugno. Il movimento si sta spegnendo. I pirati della strada uccidono una persona al giorno, numero raddoppiato nel 2008 rispetto al 2007. L'addio di Paolo Guzzanti al Popolo delle Libertà, Silvio come il dittatore coreano, ha scritto in una lettera. Fra poco l'intervista al deputato. Servizi segreti, verbali in spagnolo e dinamico. Mite, ancora fitto il mistero sullo zaino esplosivo trovato a Genova. A 30 anni dalla rivoluzione comunista, l'Iran festeggia lanciando un satellite per le telecomunicazioni. Una buona giornata da Simone Spezia e da Alessandra Tedesco. E benvenuti a questa nuova edizione del GR Extra Large che apriamo dunque andando ad Udine. Andiamo a Udine perché durante la notte è avvenuto il trasferimento di Eluana Englaro nella clinica La Quiete, appunto, di Udine. La struttura sanitaria si è dichiarata disponibile a interrompere l'alimentazione e l'idratazione artificiali. Ci racconta tutto Raffaella Calandra in diretta. Raffaella. Sì, buongiorno. Una guardia giurata davanti alla stanza di Eluana al terzo piano della clinica La Quiete di Udine. Udine, un vigilante difende la privacy della donna trasferita qui nella notte da Lecco. Dopo il passo indietro della città di Udine, nel timore di conseguenze legate all'atto di indirizzo del ministro Sacconi che vietava al servizio sanitario di interrompere l'alimentazione, è dunque in un'altra struttura friulana, l'ultima stazione del calvario lungo 17 anni della famiglia Englaro. La Quiete di Udine, raccogliendo un iniziale invito degli enti locali a valutare la richiesta del papà Beppino, alla fine ha detto sì, vedendo che invece dalla regione Lombardia non veniva nessuna collaborazione, come pur era stato stabilito dalla sentenza del TAR. Ci siamo riuniti, ci raccontano i vertici, abbiamo riflettuto sul fatto che questa non è una struttura del Servizio Sanitario Nazionale, bensì privata, e allora non temiamo ripercussioni, ci raccontano. Ad agevolare la soluzione dell'impasse anche la creazione di una associazione di medici volontari costituitasi ieri per Eluana, si chiama, che non sono della clinica e che accompagnerà però Eluana negli ultimi giorni. Ecco, che cosa succederà ora, Raffaella? A questo punto questi medici seguiranno quanto è stato stabilito dalla sentenza della Corte d'Appello di Milano che a luglio, autorizzando l'interruzione dell'alimentazione per Eluana come richiesto dal padre, ha dato anche alcune indicazioni precise su come questo debba avvenire, come ha ricordato l'avvocato della famiglia, Vittorio Angiolini. La Corte d'Appello dà alcune prescrizioni sull'idoneità del trattamento medico. Qui il problema è questo: se si tratta di esprimere delle opinioni su i problemi generali collegati al caso di Eluana Englaro, ciascuno è libero ovviamente di esprimere le sue opinioni, ci mancherebbe altro. Questo peraltro non toglie che ogni interferenza in un trattamento sanitario in corso, prima ancora che contro il diritto, cozzi contro un senso di umanità elementare. Queste ultime parole sono una risposta indiretta all'ultimo commento del ministro del welfare Maurizio Sacconi, sentiamo. Io credo che da un lato sia doverosa la comprensione verso il dramma della famiglia, dall'altro sia altrettanto doverosa un diffuso interrogativo nella nostra società, nelle nostre istituzioni, circa il senso della vita e della morte. Io ho pensato che fosse giusto adottare un principio di cautela, un principio di prudenza, in assenza di una legislazione specifica. E a questo punto questa è la situazione, nel frattempo ci sono anche ovviamente le proteste del mondo della Chiesa e il Vescovo di Udine ha convocato una conferenza stampa, saremo a vedere cosa verrà fuori. Grazie Raffaella Calandra, noi ora cambiamo argomento perché ieri vi abbiamo riferito della sentenza sull'omicidio Fortugno, il vicepresidente del Consiglio regionale della Calabria, ucciso a Locri il 15 ottobre del 2005, 4 le condanne all'ergastolo. Ma la cosa che sta facendo discutere l'assenza in aula alla lettura della della sentenza sia dei colleghi del Consiglio regionale sia dei ragazzi di Ammazzateci Tutti, il movimento nato sull'onda dell'indignazione scatenata proprio dall'omicidio Fortunio. Ma perché quei ragazzi che all'indomani proprio dell'omicidio sfilarono per le strade della Locride non c'erano alla lettura della sentenza? Anna Migliorati l'ha chiesto a uno di loro, il presidente di Ammazzateci Tutti, Aldo Pecora. Tra l'altro Ammazzateci Tutti aveva tentato di costituirsi parte civile, ma non c'è riuscita. Costituirsi parte civile in un processo devi essere costituito prima del fatto doloso. Quindi in poche parole noi saremmo dovuti nascere prima dell'omicidio Fortunio. La storia parla chiaro. Se noi esistiamo è perché dopo quell'omicidio siamo scesi in piazza. Nulla però vi impediva ieri simbolicamente di esserci. Ma le nostre facce si sono scontrate in questi anni già aspramente anche con familiari delle persone che ieri sono state condannate all'ergastolo. Quello che però non deve passare è un messaggio di guerra. Le urla servono nelle piazze, farlo nelle aule giudiziarie, aggiungere voci urlanti ed altre voci urlanti non sarebbe giusto. E anche il rispetto, lo ripeto, per la magistratura, noi siamo ragazzi, è vero, siamo irriverenti, però le urla le portiamo nelle piazze, non nelle aule giudiziarie. Quanti di quei ragazzi che all'indomani dell'uccisione di Fortunio andarono nelle piazze a urlare oggi sono ancora impegnati in questa battaglia? Oggi pochissimi, posso dire quasi nessuno a Locri. Dopo la nascita dei cosiddetti ragazzi di Locri, ci hanno definito tutti i ragazzi di Locri perché manifestavamo a Locri. Ognuno di noi veniva anche da paesi diversi. Ci hanno detto: avete il luogo dove è stato ucciso Fortunio, avrete una radio. Bene, noi per utilizzare quella radio avremmo dovuto dire anche quali sarebbero stati i contenuti delle nostre trasmissioni all'ufficio stampa del Consiglio regionale della Calabria. Insomma, volete una radio, deve essere una radio libera e non controllata a priori. Questa è anche la Calabria, purtroppo. Alcuni ragazzi che hanno fatto quell'associazione Giovani per la Locride, che non è un'associazione antimafia, è un'associazione culturale, e che è nata prima dell'omicidio Fortunio e che continua a fare dei percorsi anche di legalità presente sul territorio. Poche altre realtà conosco. Cos'è che ha spento quella stagione? Posso azzardare dicendo che quella stagione è stata spenta dallo Stato. I ragazzi vanno aiutati, non devono essere visti come uno specchietto per le allodole, come diciamo la faccia bella e pulita della Calabria da sventolare ogni qualvolta c'è qualcosa che non va. Nessuno vuole essere il vestito pulito di un corpo marcio. La notizia è stata battuta poco fa dalle agenzie. Il ministro dei rapporti con le regioni, Raffaele Fitto, è stato rinviato a giudizio dalla GUP del Tribunale di Bari. Ci aggiorna su questa notizia e ci spiega anche il perché. Giovanni Longo da Bari. Giovanni. Sì, buongiorno. Effettivamente poco fa il GUP del Tribunale di Bari ha rinviato a giudizio il ministro per i rapporti regionali Raffaele Fitto insieme con altre 7 persone. La vicenda si riferisce al periodo in cui l'attuale ministro era presidente della giunta regionale pugliese. Fitto è accusato di essere concorrente estraneo nella vicenda Cedis in quanto referente politico, sempre secondo l'accusa, di alcuni degli altri imputati per il quale è stato anche disposto il processo. I reati contestati a vario titolo sono concorso in turbativa d'asta e interesse privato del curatore fallimentare negli atti del fallimento nella procedura straordinaria di Cedis. Fitto è accusato in concorso con altri in relazione alla vendita che per la procura è stata più una svendita, 7 milioni di euro anziché una valutazione di 15,5 del gruppo che stava fallendo. Per il momento è tutto, vi restituisco la linea. Grazie Giovanni Longo in diretta da Bari per questi aggiornamenti. Veniamo alla questione sicurezza che è tornata alla ribalta a Roma, come sapete, soprattutto dopo le aggressioni e i casi di violenza sessuale delle ultime settimane. E oggi al Viminale il ministro dell'Interno Maroni ha incontrato il sindaco Alemanno, il presidente della provincia Zingaretti e quello della regione Marrazzo. Andrea Viali, allora, di cosa si è discusso? Allora, l'incontro intanto è ancora in corso, un incontro a porte chiuse, e come dicevate è stato convocato, deciso nei giorni scorsi dopo le violenze sessuali, quella di Guidonia e quella di Primavalle, episodi ai quali poi si è aggiunto anche quanto successo a Nettuno, il ragazzo indiano bruciato da 3 giovani italiani. Ecco, in questi giorni Alemanno, Marrazzo e Zingaretti hanno invitato a non alimentare il clima di tensione nato da questi episodi, ma hanno anche anticipato che oggi a Maroni avrebbero chiesto più risorse, più soldi per i controlli, per la lotta al degrado e per le espulsioni dei clandestini dal territorio di Roma. E sempre in tema di lotta all'immigrazione clandestina, ricordiamo anche che Maroni questa sera sarà a Tripoli, dove dovrebbe finalmente firmare un'intesa con il governo libico che permetterà, si spera, di partire con i pattugliamenti congiunti tra forze dell'ordine italiane e libiche davanti alle coste africane. Tutto questo succede naturalmente mentre sono ancora vive le polemiche politiche per le parole pronunciate ieri dal ministro, secondo il quale, lo ricordiamo, per contrastare l'immigrazione clandestina non bisogna essere buonisti ma cattivi e determinati. L'incontro qui al Viminale è ancora in corso, per il momento vi restituirei la linea. Grazie ad Andrea Viali. Entro oggi i magistrati della Procura di Velletri e i colleghi della Procura dei Minori interrogheranno i tre aggressori, lo ricordiamo, uno dei quali sedicenne fermati con l'accusa di aver picchiato e bruciato un immigrato indiano alla stazione di Nettuno sul litorale romano. La vittima ha riconosciuto i suoi aggressori da alcune foto. Nel frattempo si è saputo che le condizioni dell'uomo sono stabili ma rimangono molto gravi. Venerdì dovrebbe essere sottoposto ad un intervento chirurgico. Nel frattempo un'altra brutta storia di violenza sessuale arriva da Trento, una vicenda che però ha meno a che fare, se vogliamo, con la questione della sicurezza. Tre ragazzi che avevano marinato la scuola insieme ad una loro compagna di 14 anni l'hanno portata in casa di uno di loro, l'hanno fatta ubriacare e poi l'hanno stuprata. I tre, appunto, la ragazza ha poi raccontato tutto quel che le era successo e grazie alla denuncia i tre giovani sono stati arrestati e portati in una comunità protetta. Ora cambiamo decisamente argomento, parliamo di libri. In tanti hanno scritto di Napoli e della napoletanità. Uno fra questi è sicuramente lo scrittore Henry De Luca, nato appunto a Napoli. È da poco uscito in libreria il suo ultimo romanzo, Il giorno prima della felicità, pubblicato da Feltrinelli. Quando si legge questo romanzo si ha un po' l'impressione di trovarsi davanti ad un quadro. Con rapide pennellate De Luca ci fa entrare proprio nell'atmosfera della Napoli della guerra e della dopoguerra e anche proprio nel carattere degli abitanti della città. Due protagonisti di questo romanzo, un adolescente orfano che vive in un piccolo ripostiglio e il portiere del palazzo Don Gaetano. I due passano molto tempo insieme a giocare a carte e Don Gaetano racconta al ragazzo storie di guerra, come le quattro giornate quando i napoletani si ribellarono ai nazisti. Fra i due nasce così un rapporto fatto di tenerezza e affetto, come ci ha raccontato lo stesso Henry De Luca. Le solitudini che vengono nel deserto degli affetti poi riescono a saldarsi e a scambiarsi delle cose, degli affetti, un po' di bene. Ma a me piacciono i momenti in cui avviene un passaggio, una crescita di un ragazzo, di un adolescente, ma avviene con l'aiuto di un testimone, come qualcuno che ti aiuta a passare il punto difficile della tua crescita. Una cosa che dice il protagonista al ragazzino, dice, gli ripete una frase napoletana che dice: ti devo insegnare e poi ti devo perdere. Il titolo Il giorno prima della felicità viene spesso ripetuto nel romanzo, il giorno prima della felicità per l'ebreo che è costretto appunto a nascondersi ed è il giorno prima della felicità anche per il ragazzo protagonista. Che cosa intende lei per il giorno prima della felicità? Beh, intanto in una situazione della insurrezione, quando sono pronti per buttare fuori i tedeschi dalla città dopo tre giorni di combattimenti, ecco, quello è un giorno prima della felicità, cioè della felicità della liberazione. È bello sapere che che la felicità arriva il giorno dopo, è bello saperlo il giorno prima. Nel caso del ragazzo pure lui vorrebbe sapere qualcosa della sua felicità e saperlo un giorno prima. E dunque tutti e due sono dei momenti di carichi di attesa ma anche di agguato, perché la felicità non è una carezza ma è ruvida e può essere molto brusca. GR Extra Large, queste le notizie della giornata. Eluana Englaro è già nella clinica di Udine che la ospiterà in attesa che le sia tolto il sondino dell'alimentazione, forse fra tre giorni. Il ministro del welfare Sacconi dice che si sta valutando la situazione ma non ha specificato se vi siano nuovi provvedimenti in arrivo. Rinviato a giudizio il ministro per gli affari regionali Raffaele Fitto. Fra le accuse, concorso in turbativa d'asta per la vicenda della vendita della Cedis quando Fitto era presidente della regione Puglia. L'addio di Paolo Guzzanti al Popolo delle Libertà. Il deputato e giornalista ha deciso di lasciare il partito in polemica con Silvio Berlusconi. Si iscriverà al gruppo misto e aderirà al partito liberale. Tra poco l'intervista. All'indomani della sentenza che ha condannato all'ergastolo i mandanti e il killer dell'omicidio Fortugno, si torna a parlare dell'aula di tribunale vuota durante la lettura della sentenza. Dove è finito il movimento della società civile che si era animato nel 2005? Dove sono i ragazzi di Locri? Ne parla il presidente di Ammazzateci Tutti, Aldo Pecora. Quella stagione è stata spenta dallo Stato. I ragazzi vanno aiutati, non devono essere visti come uno specchietto per le allodole, come diciamo la faccia bella e pulita della Calabria da sventolare ogni qualvolta c'è qualcosa che non va. Nessuno vuole essere il vestito pulito di un corpo marcio. I pirati della strada uccidono una persona al giorno, il numero è quasi raddoppiato rispetto al 2007, quando 169 persone furono uccise, investite da un'auto, poi fuggite. Il perché? Da Giordano Biserni, presidente dell'Associazione Amici della Polizia Stradale. Si spiega con il fatto che molti hanno capito che dopo un incidente stradale scattano dei controlli veramente severi ora. Si sa perfettamente che quando si è bevuto poi ci sarà un alcol test, Molti prendono la via di fuga proprio per non sottoporsi a questo meccanismo. L'Iran ha annunciato oggi, nei giorni nei quali si festeggia il trentennale della rivoluzione comunista, di aver messo in orbita il primo satellite interamente costruito nel paese. Il satellite, denominato Omid Speranza, raccoglierà informazioni dalla Terra e le invierà al centro di controllo. Non abbiamo intenti militari, assicura il presidente Ahmadinejad. L'annuncio è arrivato ieri, me ne vado dal partito. Paolo Guzzanti ha detto addio a Silvio Berlusconi, al PDL e al gruppo parlamentare, facendo sapere che si iscriverà al gruppo misto della Camera e che aderirà al Partito Liberale. Buongiorno a Paolo Guzzanti. Buongiorno, eccomi qua. Allora, perché questa scelta di abbandonare il partito il Popolo delle Libertà? È una scelta che è arrivata dopo una lunga maturazione, di cui poi ho dato continui segnali, non è stata una cosa che è sbocciata una mattina. Diciamo, c'è stata un'accelerazione intanto con la posizione di Berlusconi, che io ho biasimato nella maniera più aperta anche sul giornale, con dichiarazioni, con interventi alla Commissione Esteri e alla Camera, sulla guerra in Georgia, la sua odiosa dal mio punto di vista, inaccettabile sul piano morale, amicizia con Putin, che io considero come molti un brigante internazionale e un dittatore che sta riportando la Russia al prima, senza comunismo, ma insomma siamo lì. Il secondo motivo è stato lo spettacolo di desolazione in cui versa il Parlamento della Repubblica, che ormai non è più un Parlamento, è un ufficio di dipendenza del governo. Proprio il Sole 24 Ore ieri ha pubblicato dei dati eloquenti: su 45 leggi approvate, 44 sono di iniziativa del governo, solo una di iniziativa parlamentare, 11 voti di fiducia. Un governo che ho paragonato a una slitta con i cani, in cui ci sono i capi partito che con la frusta mandano tutti i messaggini, mandano a votare, e si vota un votificio, l'iniziativa parlamentare è morta. Questo è molto grave, perché la nostra è una democrazia sempre fragile, che non ha mai raggiunto la maggiore età, ed è stata delusa poi quella rivoluzione liberale che Berlusconi aveva promesso, e che chi l'ha vista, non si è mai visto nulla. Si sono viste delle cose, delle leggi di riforma anche apprezzabili, ma proprio quel cambiamento di stile nel senso di una rivoluzione liberale è mancato del tutto. Questo poi, il partito stesso è un partito dominato verticalmente. Ecco, onorevole Guzzanti, proprio su questo, lei è arrivato a definirlo in un'intervista questa mattina alla Repubblica, a definire il partito come la corte di Kim Il-sung, il dittatore coreano. Esatto, insomma. Ho detto che molte volte nelle kermesse, nelle feste, nelle manifestazioni di Forza Italia avevo l'impressione di trovarmi al compleanno di Kim Il-sung e non in un congresso di partito. Quindi sì, però l'ho detto, pare una buttata. Ma... Vabbè, un po' questa sensazione c'è, quindi, onorevole. Certo. Cioè, palloncini, belle ragazze con i grembiulini, bodyguards con la radiolina al collo, nulla che abbia a che vedere con un congresso, adesso un congresso che sia un normale congresso di partito, quelli in cui ci si misura, si confronta, si ascoltano le diverse opinioni fra di loro, non è mai esistito, né credo mai esisterà, non ce n'è traccia né speranza. Quindi, dopo la sua decisione, Berlusconi le ha detto qualcosa? Vi siete parlati? No, credo che abbia mandato avanti il povero Sandro Bondi, persona amichissima, tra l'altro un mio caro amico con cui ho un rapporto personale di amicizia, di affetto, quando ho visto che a lui è stato affidato, l'ho definita una cosa anche questa sovietico-putiniana, no? Quella di mandare la persona più amica a spararti il colpo alla nuca, e mi ha ingiunto di dimettermi dal Parlamento. Io non ho nessuna intenzione di dimettermi dal Parlamento, perché la Costituzione dice che ogni parlamentare rappresenta l'intera nazione, e perché sono arciconvinto, d'altra parte, di avere tutti i voti e il consenso necessari, se fosse possibile contarli e misurarli, per rappresentare gli elettori. Onorevole, mi scusi, rapidissimamente, quando parlava del congresso, perché abbiamo pochissimo tempo, quando parlava del congresso sembrava quasi sentire, diciamo, la mancanza del PC. Ma anche del PSI, della DC. Io sono cresciuto nei grandi partiti, il mio partito era il Partito Socialista Italiano, ma era un partito di risse, di conflitti, i giornali e i giornalisti mandavano plotoni di cronisti per sapere che vedere che cosa succedeva. Quelli del PC erano piuttosto criptici, almeno fino a un certo punto, ma comunque tutti i congressi in cui le posizioni si sfidavano, si confrontavano, non esisteva l'idea che se tu sei contro l'attuale segretario te ne devi andare, allora che ci stai a fare qui? Questa è una novità che è venuta appunto nel partito Kim Il-sung, che non appartiene alla tradizione della democrazia, direi poi nella tradizione di nessuna democrazia occidentale, ripeto, forse in Russia, ma io eviterei di importare questi modelli. Grazie allora a Paolo Guzzanti. Noi, Simone, continuiamo a parlare di politica. Sì, per parlare della riforma della legge elettorale per le europee, che arriva alle 14 in aula, quindi tra pochissimo alla Camera. Si tratta del testo sul quale PDL e PD hanno raggiunto un accordo per introdurre la soglia del 4%, cosa che ha creato qualche mal di pancia sia a destra che a sinistra, nel Partito Democratico, nei piccoli partiti. Di Partito Democratico però ci occupiamo. Elisabetta Fiorito, cosa accade? Allora, la riforma elettorale delle europee arriverà in aula nel pomeriggio a Montecitorio, ma intanto, come dite voi da studio, i piccoli sono sul fronte di guerra per quanto riguarda lo sbarramento del 4%. I radicali chiedono il voto segreto, la destra manifesta in via del corso, il Movimento per l'Autonomia presenta ben 2.800 emendamenti. L'accordo è tra PDL e PD per lo sbarramento, accettato anche dall'Italia dei Valori, ma nel Partito Democratico scoppia il caso dell'emendamento Sposetti. Il parlamentare ha presentato la proposta di rimborsi elettorali anche per i partiti che non raggiungono la soglia del 4%. Basterebbe arrivare all'1%. Il gruppo chiede di ritirarlo, il PD si oppone a dare soldi per la frammentazione, ma Sposetti non ha intenzione di retrocedere, e dello stesso parere del PD anche Italo Bocchino del PDL, dice: dare soldi a partiti senza rappresentanza non ha senso. Insomma, come vediamo, non è ancora giunta in aula alla Camera la legge per la riforma della legge elettorale europea, e già ci sono moltissime discussioni. Studio. Grazie Elisabetta Fiorito. Ora vi parliamo della quarta edizione dei Luoghi del Cuore, l'iniziativa consueta della FAI. Più di 100.000 italiani si sono mobilitati per il tradizionale censimento del FAI dedicato ai luoghi del cuore, un'iniziativa dove il montepremi è soltanto migliorare l'ambiente in cui viviamo. La presidente del FAI, Giulia Maria Mozzoni Crespi. La gente sta cominciando a diventare consapevole. Purtroppo nessuno dei politici li ha aperti e neppure li vuole aprire, come hanno fatto i banchieri con l'economia. Per questa quarta edizione il FAI aveva chiesto agli italiani di segnalare ciò che rovina i luoghi più amati. Al primo posto è risultato, con oltre 7.000 segnalazioni, il castello della Colombaia di Trapani, ex fortezza militare, poi carcere, abbandonato dal 1965. Il sindaco della città siciliana, Girolamo Fazio. Per evitare di perdere un po' questo bene che fa parte della storia culturale della città di Trapani, si sono mobilitati. Mi auguro che questo determini poi l'intervento da parte dell'istituzione, che in questo caso è lo Stato, affinché evitino il totale degrado e se non addirittura la distruzione dell'immobile. Al secondo posto, con oltre 5.000 segnalazioni invece, la libreria Bocca in Galleria Vittorio Emanuele a Milano, punto di riferimento culturale cittadino che rischia di chiudere perché il comune ha aumentato le richieste d'affitto in modo insostenibile. Giorgio Lodetti della libreria Bocca. Dopo 230 anni di attività, dopo aver sorpassato crisi, guerre mondiali, lotte interne, adesso un comune che in teoria dovrebbe difendere e tutelare determinate tipologie commerciali, biecamente le sta facendo chiudere, spegnere. Adriana Fracchia, GR24, Il Sole 24 Ore. GR Extra Large, queste le notizie della giornata. Eluana Englaro è già nella clinica di Udine che la ospiterà in attesa che le sia tolto il sondino dell'alimentazione. Forse fra 3 giorni il ministro del welfare Sacconi dice che si sta valutando la situazione, ma non ha specificato se vi siano nuovi provvedimenti in arrivo. Al di là delle intenzioni, è eutanasia, dice la CEI. Il vescovo di Udine, Pietro Brollo. Alla notizia del suo arrivo, anzitutto chiedo che a questa donna sia garantita assistenza, idratazione, nutrizione ed ogni altro mezzo che è dovuto all'infermo e particolarmente al disabile più grave, da parte di chi ha il dovere professionale e di coscienza di prendersene cura. In quest'ora, dopo sentenze e dibattiti, tormentati dalla percezione di essere di fronte a un grande dramma, ribadisco a scanso di qualsiasi confusione e malinteso che l'unico dovere che ha la società nei confronti di Eluana è quello di aiutarla a vivere. Rinviato a giudizio il ministro per gli affari regionali Raffaele Fitto. Fra le accuse, concorso in turbativa d'asta per la vicenda della vendita della Cedis quando Fitto era presidente della Regione Puglia. L'Assemblea dei deputati del Partito Democratico ha dato il via libera all'intesa sulla riforma della legge elettorale per le europee, quella con lo sbarramento al 4%. Il voto è arrivato al termine della riunione, ha registrato 4 contrari e 2 astenuti. Massimo D'Alema è andato via prima del voto. I pirati della strada uccidono una persona al giorno, il numero è quasi raddoppiato rispetto al 2007. L'Iran ha annunciato oggi, nei giorni nei quali si festeggia il trentennale della rivoluzione comeinista, di aver messo in orbita il primo satellite interamente costruito nel paese. In tempo di crisi economica arriva un fondo nazionale della CEI, la Conferenza Episcopale Italiana, per aiutare le famiglie in difficoltà. È un'iniziativa a livello nazionale presentata questa mattina, nata dall'idea dell'arcivescovo di Milano, Dionigi Tettamanzi, di cui tra l'altro vi abbiamo parlato ieri, che lo scorso Natale ha stanziato 1 milione di euro in aiuti per le famiglie della sua diocesi. Nella questione coinvolta naturalmente anche la Caritas italiana, ebbene Paolo Piacenza ha intervistato Monsignor Vittorio Nozza, che della Caritas è direttore, per capire come funzionerà questo fondo. Innanzitutto qui si sottolinea che chi di dovere deve fare la sua parte, cioè le istituzioni in pratica, sia le istituzioni politiche sia le istituzioni bancarie, sono chiamate, diremmo così, a pensarla alla grande e trovare le formule più ampie e più sostenibili possibili nei confronti soprattutto dei nuclei familiari, delle imprese, dell'artigianato, del commercio e così via. Dall'altra parte è bello ed anche una cosa, diremmo, importante che la Chiesa, che le realtà di Chiesa, in un momento di crisi forte come questo, in un certo senso dicano anche delle novità, delle forme nuove di approccio. L'intenzione è quella soprattutto di concentrarci, però è una cosa tutta ancora da pensare e da definire, di concentrarci in modo particolare attorno ai bisogni della famiglia. La famiglia è il lavoro, la famiglia è la casa, la famiglia è la scuola dei propri figli. Cioè un po' quei bisogni che in un certo senso vanno sostenuti e supportati in modo tale che non ne venga una carenza tale da mettere in difficoltà, non so, la frequentazione alla scuola, la possibilità di pagarsi l'affitto, la possibilità di sistemare il mutuo che magari si era aperto e che ora risulta essere piuttosto gravoso, la possibilità in un periodo in cui magari il lavoro che c'era si fa precario, addirittura sparisce, ci sia un qualcuno che una mano la dà. Ci sono già dei primi segnali del fatto che la crisi comincia a mordere fasce anche abbastanza ampie di popolazione? Sì, ecco, i segnali, diremmo così, che già di per sé stavamo considerando precedentemente a questa crisi, era quella dei nuclei familiari che faticavano a dare risposta opportuna, dignitosa a quelli che sono i bisogni primari, arrivando alla cosiddetta fine mese, all'ultima settimana del mese. Ecco, si sta aggravando la fascia di queste persone e incominciano ad esserci segnali, diremmo così, di cassa integrazione, di perdita di posto di lavoro, di difficoltà, direi, ad affrontare quelle che sono gli impegni, quelli che sono stati gli impegni assunti nel passato, dal mutuo all'affitto casa o l'acquisto casa, quindi a come poter dare ragione a impegni assunti. Sono aumentati in maniera impressionante i casi di pirateria stradale in Italia. Nel 2008 le persone investite e uccise da automobilisti che sono poi fuggite sono state 323 contro le 164 del 2007. I dati sono dell'ASAPS, l'Associazione Amici della Polizia Stradale. E Simone, tu hai chiesto appunto il perché di questo nuovo fenomeno a Giordano Biserni, che è appunto presidente dell'ASAPS. Si spiega con il fatto che molti hanno capito che dopo un incidente stradale scattano dei controlli veramente severi ora. Mi riferisco alla presenza, lei vede, del 44% degli episodi sono alcol correlati o narco correlati, quindi si sa perfettamente che quando si è bevuto poi ci sarà un alcol test, un narco test. Molti prendono la via di fuga proprio per non sottoporsi a questo meccanismo. È impressionante il fatto che di fronte a un calo degli incidenti stradali nel 2007 e anche nel 2008, quindi una tendenza positiva, c'è questa forbice negativa che è della pirateria stradale, va letta in questa direzione: presenza di alcol, di sostanze, indifferenza e cinismo e vigliaccheria, tipici atteggiamenti che ormai stanno diventando prepotenti nello scenario stradale. E mi faccio aggiungere anche un caso particolare, l'aspetto economico. Sono molti coloro che viaggiano ormai con certificati assicurativi scaduti e spesso falsi. Loro lo sanno, nel momento in cui hanno un incidente, quando prendono il pedone, il ciclista o comunque una botta che permetta di scappare, si danno alla fuga perché sanno che il conto poi viene fuori. Questo è un aspetto che deve essere considerato con molta attenzione. C'è una vicenda di cronaca che stiamo seguendo da qualche giorno ed è la vicenda di uno zaino. Lo zaino ritrovato, abbandonato alla stazione di Genova e poi ritrovato dalla comunità di Dongallo, ed era uno zaino pieno di dinamite. Sentiamo le novità. Il giallo è fitto, le ipotesi si rincorrono attorcigliandosi. L'elemento di partenza delle indagini resta il misterioso verbale di polizia trovato all'interno dello zaino accanto ai 64 candelotti di dinamite agli inneschi. In stretta collaborazione con l'Interpol, i poliziotti dell'antiterrorismo stanno vagliando l'identità della donna che, secondo quanto è scritto nel documento, sarebbe stata sottoposta ad una perquisizione in un'abitazione di Panama, suo paese di origine. Gli agenti della polizia locale avevano cercato vanamente armi o droga. Dai primi accertamenti è risultato che il nome è sconosciuto agli archivi del Ministero degli Interni. Il fatto che il verbale sia stato trovato all'interno dello zaino accentua l'alone di ambiguità che circonda l'intera vicenda. Si è trattato di una distrazione o volutamente qualcuno ha infilato nello zaino il documento accanto alla bomba per marchiare così l'esplosivo? Un dilemma che lascia spazio a varie dietrologie e adombra la possibilità che lo zaino abbia subito manomissioni prima della consegna alla comunità di Dongallo, dopo essere rimasto per lungo tempo al deposito bagagli della stazione Principe. Intanto il sostituto procuratore Andrea Canciani ha aperto un fascicolo a carico di ignoti con l'ipotesi di detenzione e trasporto di materiale esplosivo. Andrea Ferro, GR24, Sole 24 Ore, Genova. Ora un'altra vicenda che stiamo seguendo da tempo ad Extra Large, questa volta ci porta in Salento. Qualche settimana fa vi avevamo parlato di rifiuti tossici a Ugento nel Salentino, una storia molto semplice: c'era una discarica ricolma di rifiuti tossici scaricati di notte e un aumento di tumori tra la popolazione. La denuncia degli scarichi non la porta la magistratura alla popolazione però, ma un imprenditore coinvolto, Bruno Colitti, che di suo pugno scrive una lettera ai magistrati per autoaccusarsi di aver scaricato materiale tossico tra il 2005 e il 2006 nella contrada Burgesi ad Ugento, tutto a pochi metri dalla falda acquifera. Prima che Colitti si denunciasse, un uomo, Peppino Basile, aveva fatto di questa storia un suo cavallo di battaglia. Era talmente battagliero che venne ucciso, ma nessuno osa ammettere che il suo omicidio sia collegabile a questa storia di rifiuti tossici, appalti e criminalità organizzata. Intanto Colitti dice non solo di aver scaricato, ma che la discarica abusiva di Contrada Burgesi non è mai stata bonificata e i soldi dell'appalto sono stati intascati dalle ditte senza muovere un sasso. Colitti lo sa perché aveva vinto uno dei subappalti per 360.000 euro mai incassati ed era stato tra quelli che avevano sotterrato i rifiuti anziché smaltirli. Una storia di fantapolitica, dice Eugenio Ozza, sindaco di Ugento del PDL che abbiamo sentito. Qualcuno si è inventato un'autodenuncia e stanno uscendo fuori di nuovo queste chiacchiere. Finché cioè lei dice che Colitti, l'imprenditore che si è autodenunciato per aver scaricato materiale tossico tra il 2005 e il 2006, si è inventato tutto? Materiale tossico non ce ne poteva essere perché è stato bonificato. Colitti le disse che lui stava scaricando? Questo è falso, questo, per questo motivo stiamo querelando. Comunque... Lei comunque dice che la discarica, diciamo, di Contrada Burgesi, quella abusiva, è stata bonificata? Sì, ma quello che faceva parte dell'appalto. Ma è stata bonificata? Ma sì, tutta bonificata. Siccome io ho sentito anche la popolazione che dice che negli scorsi anni ci sono stati lavori di scavo notturni e di scarico notturni, lei ma nel sono dubbio tutte perché... sono tutte voci, non sono compiti istituzionali del comune questo. Però lei istituzionalmente, come sì, sindaco, non ha preso una posizione, perché? Perché non c'era niente, adesso sono uscite queste sciocchezze. Cristina Carpinelli, GR24, Il Sole 24 Ore. Sabato inizia il 6 Nazioni di rugby e prosegue così il nostro viaggio fra le avversarie dell'Italia. Giacomo Bagnasco, dove andiamo oggi? Oggi andiamo all'estremo nord del torneo, andiamo a Edimburgo, parliamo della Scozia che è stata a lungo l'avversario più malleabile degli azzurri, ma si presenta con credenziali in aumento. La squadra allenata da Frank Haden ha giocato dei buoni test match a novembre, ha sfiorato la vittoria con i campioni del mondo del Sudafrica. Le sue due rappresentanti nella Heineken Cup, che è l'equivalente della Champions League del calcio, hanno fatto buone figure pur non riuscendo a qualificarsi ai quarti. La squadra è migliorata nella mischia con l'ingresso di alcuni uomini di valore, ha un mediano di mischia, Mike Blair, che è sicuramente uno dei migliori del mondo nel suo ruolo e quest'anno è stato in lizza nella cinquina dei nominati dalla International Rugby Board come giocatore dell'anno, e poi ha un calciatore strepitoso, questo Chris Patterson, che spesso ci ha dato dei dispiaceri e che molte volte va vicino all'infallibilità quando addirittura non la raggiunge. La Scozia non vince un torneo dal 99, quest'anno però vuole dare il meglio, sicuramente non è favorita per la vittoria finale, non credo che nemmeno gli scozzesi ci stiano pensando. Intanto però alla prima giornata ospiteranno il Galles, campione in carica, e c'è grande attesa per questo confronto. Giacomo, ci sono dei punti deboli che l'Italia potrà sfruttare nella squadra scozzese? Ma negli anni passati con gli scozzesi ci siamo presi delle soddisfazioni. Su 9 edizioni del 6 Nazioni li abbiamo battuti 4 volte, 3 volte in casa e una volta in trasferta. 2 anni fa a Edimburgo è arrivato questo storico 37-17, prima e unica vittoria dell'Italia fuori dal Flaminio. Sicuramente la Scozia è la squadra, nonostante tutto, è la squadra più alla nostra portata. Dobbiamo aspettarci una partita tatticamente molto accorta, un'Italia che sappia conquistare la maggior parte dei palloni. Ecco, lì possiamo forse essere ancora superiori agli scozzesi, e quindi soprattutto su questo dettaglio dobbiamo mettere le nostre speranze per il match che si disputerà a Edimburgo il 28 di febbraio. GR Extra Large, queste le principali notizie della giornata. Eluana Englaro è già nella clinica di Udine dove le verrà tolta l'alimentazione, forse fra 3 giorni, è eutanasia, attacca la CEI. L'Assemblea del Partito Democratico dà il via libera alla legge elettorale per le europee, ma con 4 voti contrari e Massimo D'Alema che se ne va prima del voto. Berlusconi attacca Soru, è un fallito come imprenditore ed è un incantatore. Di recente ha licenziato oltre 250 persone. Rinviato a giudizio il ministro per gli affari regionali Raffaele Fitto, tra le accuse concorso in turbativa d'asta per la vicenda della vendita della Cedis quando era presidente della Regione Puglia. I pirati della strada uccidono una persona al giorno, numero raddoppiato rispetto al 2007. Servizi segreti, verbali in spagnolo e dinamite, ancora Fitto il mistero sullo zaino esplosivo trovato a Genova. A 30 anni dalla rivoluzione comeinista, l'Iran festeggia lanciando un satellite per le telecomunicazioni. Avete appena sentito dai nostri titoli il lancio nello spazio di un satellite interamente iraniano. Su questo ci sono già le prime dichiarazioni del presidente iraniano Ahmadinejad. Sì, dice che ha solo scopi pacifici, al contrario di quanto fanno le potenze sataniche. Questa è la dichiarazione appunto di Mahmoud Ahmadinejad. E sul lancio di questo primo satellite iraniano il commento di Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore, tra l'altro autore di un libro uscito da poco per Tropea, che si intitola Il turbante e la corona, l'Iran 30 anni dopo. Il lancio in orbita del primo satellite iraniano è uno di quegli eventi che suscitano attenzione e allo stesso tempo preoccupazione. La Repubblica Islamica, che celebra in queste settimane i 30 anni dalla fondazione e dalla caduta dello Shah, è riuscita in un'impresa tecnologica non indifferente per un paese sottoposto a sanzioni internazionali e americane. Le capacità balistiche iraniane sollevano però qualche preoccupazione sulla possibilità dell'Iran di lanciare anche missili a lunga gittata, dotati magari di testate nucleari. Ecco allora che il lancio del satellite di Teheran rinvia immediatamente a una delle principali questioni della politica internazionale. Come affrontare il problema del nucleare iraniano? La questione è strettamente connessa alla natura del regime islamico e al ruolo dell'Iran sulla scena medio orientale, dall'Iraq al Libano, dalla Palestina all'Afghanistan. Le dichiarazioni favorevoli al dialogo con Teheran del presidente Barack Obama, le risposte della nomenclatura iraniana, un giorno positivo, un altro negative, indicano che tra aperture e arroccamenti è iniziata una complessa partita a scacchi, decisiva per gli equilibri medio orientali e mondiali. Il satellite iraniano in orbita si chiama Umid, cioè speranza in iraniano. Ci si augura che sia di buon auspicio per il futuro. Il premier israeliano Olmert, rimaniamo naturalmente all'estero, ha avuto stamattina una consultazione con i ministri degli esteri e della difesa per decidere la reazione di Israele dopo la caduta di un razzo sparato da Gaza sulla città di Ashkelon. Secondo la radio pubblica, il premier avrebbe ordinato di reagire, ma noi andiamo alla cronaca sul campo. Sì, andiamo precisamente a Gaza, dove da qualche giorno si trova Fausto Biloslavo. Fausto, che idea ti sei fatto della situazione a Gaza? La gente di Gaza si sforza di ricominciare una vita normale, ma nella striscia di terra palestinese continua ad aleggiare lo spettro della guerra. Come avete detto questa mattina, un razzo è stato lanciato da Gaza verso la città israeliana di Ashkelon e il ministro della difesa di Israele, Ehud Barak, ha dato ordine di rispondere al fuoco e proprio pochi minuti fa ho sentito raffiche di mitra al confine nord della striscia e a Beit Lahia, dove mi trovo. Centinaia di palestinesi vivono sotto le tende, molte case sono state colpite e anche rase al suolo, ma cominciano ad affiorare i racconti dei civili presi fra due fuochi, con i miliziani di Hamas che si piazzavano sui tetti o negli appartamenti dei palazzi, zeppi di gente attirando il fuoco israeliano. Hamas ha cantato vittoria, ma fra i palestinesi della striscia gira una battuta veramente tragicomica. Un paio di vittorie come queste, dicono, e Gaza non esisterà più. Grazie Fausto Biloslavo in collegamento da Gaza. Torneremo a collegarci con te naturalmente nei prossimi giorni. Ora torniamo all'Italia con quella che è di fatto una buona notizia. Sì, è un'iniziativa di un gruppo di anziani che ha deciso di organizzare degli spettacoli teatrali per sensibilizzare gli altri anziani sul pericolo delle truffe. Una risata li seppellirà. Con una commedia teatrale, gli anziani di Brescia reagiscono alle truffe ordite ai loro danni. L'iniziativa, che vede coinvolti il comune, la questura, la compagnia teatrale La Betulla e diverse associazioni, consiste nel mettere in scena storie che prendono spunto da vere denunce arrivate in questura. Dal falso assicuratore al falso antennista, che si introducono in casa con una scusa e poi se ne vanno con denaro e preziosi. L'idea è venuta al presidente dell'associazione Non Solo Pensionati, Daniele Ceresa. Usiamo il teatro per opporci a questa recita, facendo vedere parola per parola i meccanismi con cui queste persone riescono a colpire l'amore filiale, il senso dell'onore, della famiglia, il rispetto verso le istituzioni, cioè questi valori degli anziani, la solitudine degli anziani, perché quando qualcuno si rivolge ad un anziano e gli parla e lo mette al centro dei suoi interessi, quando quest'uomo magari è stato da solo per una settimana, diventa anche difficile resistere. Nella realtà, dicono gli agenti di polizia, in un mese e mezzo in città sono state messe a segno 35 truffe a danno di anziani, più di una al giorno. Valentina Furlanetto, GR24, Il Sole 24 Ore. È tutto per questa edizione del GR Extra Large, condotta e curata da Simone Spezia e da Alessandra Tedesco, coordinata da Maria Piera Cece con in regia Peter Bescapè. Prossimo GR alle 15, noi ci risentiamo domani alle 13. GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Gianfranco Fabi.